Radio 24 Reportage. Milano, il tempo dell'Expo, di Gigi Donelli e Laura Bettini. Facciamo in modo che questa sia occasione di un cambiamento di mentalità. Expo Milano 2015 nasce e vive per parlare all'intera umanità. Siamo un grande paese e che dobbiamo smettere di stare soltanto a piangerci addosso come vorrebbero alcuni professionisti del non ce la farete mai. Siamo pronti alla vita. Papa Francesco, il sindaco di Milano Pisapia, il premier Renzi, una cerimonia di inaugurazione scaldata da un coro di bambini che interviene sull'inno di Mameli per introdurre nel sollievo generale la vita al posto della morte e lanciare così il tema di un'expo dedicata al cibo, all'alimentazione, all'energia per la vita, cui i bambini alludono. Dopo tanto discutere, il 1° maggio porta dunque Expo. Finalmente si parte con una cerimonia retorica al giusto che rispetta i tempi e viene premiata con le nuvole cariche di pioggia che si trattengono quanto basta per risparmiare il teatro all'aperto. My carvers who have built this temple for months long, they had to go back, that is very sad. Tra i lavoratori italiani che portano il tricolore sul pennone viene invitato anche Amrit Ratnashakia, il capo dei carpentieri nepalesi, che poi ci racconta quanto queste giornate così drammatiche per la sua gente abbiano dato un nuovo senso al lavoro della sua squadra. Spiega che mentre alcuni sono dovuti tornare in fretta in cerca delle loro famiglie, altri hanno scelto di stare in Italia, completare il tempio e fare di Padiglione Nepal un faro per orientare la solidarietà internazionale verso Kathmandu. Amrit racconta il sostegno di molti amici italiani. Accanto a lui c'è Agostino da Polenza, da anni legato al progetto del laboratorio Piramide al campo base dell'Everest. Purtroppo c'è stato questo terribile terremoto. Ora questo sarà il faro del Nepal verso la comunità internazionale. Expo è la comunità internazionale, la comunità del business, la comunità delle risorse economiche. Nepal sta chiedendo ad alta voce e ha ragione di essere aiutato. Bisogna che stavolta la comunità internazionale lo faccia. Pochi metri dal composto lutto nepalese c'è un clima del tutto diverso che arriva dall'Asia centrale e anticipa la festa che verrà. Primi a spalancare le porte della loro casa milanese, i kazaki di Astana celebrano il diritto di organizzare Expo 2017 e danno dunque il via alla 2 giorni delle aperture, in cui i ritardi di alcuni si perdono nella bulimia dell'offerta, di uno spazio espositivo che tra cardo e decumano si estende su oltre 1 milione di metri quadrati. Ci sono i paesi, i cluster dei prodotti di base, gli sponsor, le banche, i servizi, la cascina dell'ONG, quelli dello slow food e quelli del fast più fast, reso classico dalle nostre abitudini. Un arcipelago del tutto che richiede tempo per orientarsi anche ai volontari disorientati ma chiaramente felici del compito che li attende. Un gruppo che incontro raccolto in Piazza Italia alle prese con il ripasso delle procedure. Beh, il modo in cui porsi proprio fisicamente, come rivolgersi, porsi in modo cordiale, certamente. Ok, la cordialità è la parola chiave. Lingue straniere, come siamo messi qui? Inglese. E? Spagnolo, tedesco, cinese. Quindi voi siete in grado di approcciare dei visitatori cinesi, però i cinesi come fanno a capire che voi sarete in grado di rispondere? È un'ottima domanda, perché non è indicato da nessuna parte che lingue conosciamo. One, two, three. Peccati di gioventù, di un'Expo sorridente, piena di giovanissimi volontari, meccanismi che possono essere messi a punto in tempi brevi, come magari anche l'indicazione dei punti di primo aiuto per chi si muove con qualche difficoltà, un supporto di cortesia ai trasferimenti da una parte all'altra lungo una via principale che è lunga quasi quanto una pista di un aeroporto, e magari l'accesso all'acqua potabile, che potrebbe anche contemplare il richiamo in servizio delle vecchie fontanelle milanesi per le giornate più calde. Insomma, tutte cose che saranno probabilmente affinate in un meccanismo che è già spettacolare e che può comunque essere migliorato strada facendo. Dès l'ouverture, ils sont des milliers aux portes de Milan. Ce matin, la capitale de la Lombardie accueille le monde entier. Il mio nome è Elia Tello, sono la vice commissaria generale per il padiglione USA. Queste prime ore sono state spettacolari, veramente sono stata qui per il processo della costruzione, sapevo che l'Expo sarebbe molto bello, però non me lo immaginavo così incredibile come è. Mi fa così piacere di vedere tanta gente contenta in tutti i padiglioni, tutti gli altri colleghi degli altri paesi, che anche sono contenti di essere qui per parlare di questo tema così importante di nutrire il pianeta. Qui si è fatto un gran parlare delle contraddizioni tra questo Expo di slow food, fast food, mixed food. A poca distanza da qui c'è McDonald's, un vero simbolo della cultura alimentare americana. Qui invece si racconta un'altra storia. È interessante perché c'è una discussione molto ampia che dobbiamo parlare, perché tutti questi temi sono importanti per tutti noi, e anche in tutti questi padiglioni diversi c'è anche un discorso di sostenibilità, quindi la tecnologia, come arriva il cibo dalla fattoria al tavolo è molto importante e tutti dobbiamo essere nella tavola per parlare di questi temi. Livorno. Ma siete venuti apposta per Expo? Sì. Quindi, primo impatto, il viaggio, come dire, vale la pena? Sì, anche perché è un'esperienza, penso, sensoriale, che coinvolge i cinque sensi, vedo con gli occhi un'infinità di colori, suoni, e anche tattile, perché in fondo si possono toccare tante cose, mi piace. Die Frecce Tricolore, Italiens Kunstflugstaffel am grauen Himmel über dem Mailänder Expo-Gelände. Donatella, che arriva da Cuneo via Benevento. Sì, perché io sono di Benevento ma insegno a Cuneo. Oggi a Milano per Expo? Assolutamente sì, stando così vicino una volta tanto, io che sono sempre decentrata e al sud, ho ben pensato di approfittarne. Sensazione di una giornata Expo? Allora, tante cose da vedere, troppe forse per una sola giornata, in realtà forse è meglio scegliere qualche cosa che presumiamo che ci possa interessare o che abbiamo sentito possa essere bella, e quindi visitarla, magari stare più tempo o un paio di giorni, due o tre giorni, tornarci in ogni caso. Comunque veramente, veramente da vedere. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è questa, cioè alcuni padiglioni, pur essendo molto belli, sostanzialmente tendevano più a propagandare il paese che non a centrare il tema. Grazie alle iniziative israeliane crescono oggi in tutte le parti del mondo milioni di ettari di frutta e verdure, persino nei campi di frumento qui in Italia. Vero Alberto? Ah, non solo frumento, un super frumento. Credo che Donatella abbia inquadrato bene uno degli aspetti insieme dei rischi di questi grandi eventi, che sono vetrine per chi le organizza, ma anche per tutti gli attori che vi prendono parte. Mezzi a disposizione, obiettivi, esigenze sono molto diverse. Se dalla Corea del Sud arriva un preciso invito a fare i conti con l'abuso del benessere di un'economia matura, e dalla Svizzera, con le sue quattro torri del consumo, si cerca di stimolare un dibattito culturale di ampio orizzonte, altri sembrano per adesso più occupati e preoccupati a dedicarsi alla promozione del proprio territorio con modalità da borsa del turismo, cosa che sembra metterli nell'Expo sbagliata. Il tema invece viene senz'altro affrontato in maniera incisiva dal padiglione zero, che si trova proprio all'ingresso occidentale dell'Expo. La sala iniziale è un colpo d'occhio straordinario, un enorme archivio di legno pieno di cassettoni che conserva la memoria dei riti e delle pratiche dell'alimentazione che hanno accompagnato l'umanità sin dai suoi albori. Inizio di un percorso attraverso 12 stanze, al termine del quale, se non abbiamo rimesso a fuoco il tema di questi 6 mesi, possiamo prendercela solo con noi stessi. Ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.